Ciao Radio Quartiere, anche qua tra i reclusi di Dublino vi mando qualche piccolo spezzone da un'altra zona rossa, tratto dal repertorio dei matti della città di Reggio Emilia a cura di Paolo Nori. Uno passando davanti alla nuova stazione dei treni di Reggio Emilia, tutta bianca, enorme, in mezzo al niente. Tutta con le luci di notte, coi treni super veloci all'avanguardia, milioni di euro. Ci passava davanti e diceva: Beh, che roba, sembra una scolapasta. C'era uno che la domenica mattina, poco dopo le 10, andava in giro per Reggio a suonare il campanello ai testimoni di Geova. E quando gli chiedevano cosa volesse, lui rispondeva solo che voleva vedere l'effetto che faceva a rompere i coglioni alla gente. Uno era andato a Barcellona con l'Audi nuova e là a Barcellona era rimasto in panne, ma non si fidava dei meccanici spagnoli. Allora aveva chiamato il soccorso Corradini, che se avevi fatto un buccio mettiamo in circonvallazione, solo per venirti a prendere la macchina dalla circonvallazione ti chiedeva 150.000 lire. E aveva fatto venire Corradini a Barcellona a prendere l'Audi e portarla a Barcellona fino al suo meccanico a Reggio. Aveva speso 2 milioni e passa. C'era una volta, tanto tempo fa, tra la prima e la seconda guerra mondiale, una che era poi anche la moglie del sindaco di Reggio. Era una donna semplice e non particolarmente acculturata, ma quando riceveva ospiti in casa ci teneva a far vedere di essere una signora. Un'amica che era stata all'estero le aveva raccontato che la doppia O in inglese si doveva pronunciare U. Così lei, volendo far sfoggio di conoscere le lingue, quando persone di rango venivano a trovare il marito, lei li accoglieva invitandoli ad assaggiare le sue squisite amarene messe sotto al culo.